Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Viola Di Grado, autrice di Cuore Cavo, pubblicato da EO. Avevamo già parlato di questa giovane autrice un paio di anni fa, quando era uscito il suo primo romanzo, 70 acrilico, 30 lana, che fra l'altro aveva vinto il Campiello Opera Prima. Ancora una volta la Di Grado ci propone un romanzo, così potremmo definirlo dark, anche se insomma definirlo con un solo aggettivo è veramente un peccato per un romanzo così ricco di sfumature. Il romanzo ha per protagonista una ragazza giovane, 25 anni, Dorotea, che si uccide. Lo possiamo dire subito perché l'incipit di Cuore Cavo è esattamente questo. Nel 2011 è finito il mondo, mi sono uccisa. Da qui secondo me inizia una delle descrizioni della morte fisica più belle che abbia mai letto, perché in qualche modo la morte fisica della ragazza si unisce alla città, Catania, dove lei vive. Allora Viola, partiamo innanzitutto da questa descrizione della morte. Abbiamo detto subito che la protagonista muore, si uccide, poi vedremo il perché e il per come, e hai voluto descrivere che cosa succede al corpo, dal rigor mortis a quello che succede dopo, in qualche modo fondendo il corpo della ragazza con le cose della città. Perché? Ma perché uno dei temi fondamentali del romanzo che mi stava molto a cuore era il discorso della perdita dei confini, e quindi Dorotea fin da viva è una persona in qualche modo con dei confini a cui mancano i confini, cioè da piccola percepisce la sua crescita come parte del deterioramento della casa, delle pareti della sua stanza, come se lei stessa non sentisse veramente la differenza fra sé e il mondo. E da morta questa cosa è esasperata, perché effettivamente il suo corpo sottoterra perde i confini, nel senso che si disgrega e si unisce alla terra. Il suo io, ho immaginato che sì, in qualche modo perdeva anche quello i confini, e quindi era come se la sua identità si diluisse nel mondo, e quindi questa cosa ho immaginato che partisse dal momento della morte, quindi era la sua identità si spargeva come una specie di malattia, di virus, o anche come geograficamente come una specie di fenomeno geologico, di terremoto, per cui l'Etna erutta e c'è questa tempesta di cenere, insomma ho immaginato questa cosa. Questa cosa che tra l'altro, come dicevo prima, a me personalmente è piaciuta molto. In questo romanzo Cuore Cavo ci sono delle descrizioni anche molto crude di quello che succede al corpo umano una volta che si muore. Lei, la protagonista, insomma lo descrive molto bene, perché si vede dall'esterno e vede il suo corpo cambiare. Come mai hai insistito parecchio su queste descrizioni fisiche, anche proprio mediche dal punto di vista scientifico? Sì, questa domanda mi è stata fatta varie volte. Secondo me il punto è cioè il perché tutte queste persone se lo chiedono. Cioè in realtà io credo che ci sia, mi interessava distruggere una sorta di tabù occidentale fortissimo, che è quello fra abbiamo bisogno di mettere questo muro fra la vita e la morte, no? E per cui la distinzione abbiamo bisogno che sia molto forte, quindi la ritualizziamo con il funerale eccetera, fra la vita e la morte non ci devono essere ambiguità, e il cadavere in qualche modo corrisponde a una fase ambigua, una fase di transizione fra le due. Non hai smesso di vivere, ma non sei ancora scheletro, sei una cosa che sottoterra continua a cambiare, a logorarsi, e questo sì, raccontarlo è sicuramente infrange un tabù, e mi interessava appunto infrangere questo tabù. Hai fatto riferimento alla cultura occidentale, probabilmente anche perché i tuoi studi ti hanno portato a conoscere una cultura diversa. Tu studi lingue orientali, giusto? Sì, ho studiato lingue orientali, e poi anche mi sono specializzata in filosofia cinese e giapponese, e quindi sì, ho riflettuto molto su queste cose, sulla considerazione del corpo, insomma, per noi e poi al di fuori dell'Occidente. In questo romanzo la protagonista è Dorotea. Abbiamo detto che si uccide tagliandosi i polsi nella vasca da bagno, quindi un'immagine abbastanza consueta, insomma, del suicidio. La trova poi la madre, la zia, insomma, adesso non raccontiamo troppo della trama. Però si capisce che questa ragazza ha una vita interiore molto complicata, complicata anche dal rapporto che ha con sua mamma, perché sua mamma è depressa, quindi spesso non comprende quelle che possano essere le esigenze e i sentimenti della figlia. Sì, perché È una ragazza madre, ha dovuto prendersi cura di questa, di questa ragazza, non è, beh, praticamente l'ha amata male in modo sì, piuttosto egoistico, e volevo descrivere questo rapporto come se fosse una sorta di malattia, perché lei si sente come se fosse la malattia di sua madre. Diciamo che mi interessa tantissimo, e anche nel romanzo precedente, no? Mi interessa tantissimo il tema dell'incomunicabilità, e quindi in 70 Grillico 30 Lana loro non riuscivano più a comunicare, le parole non funzionavano e quindi loro parlavano con un linguaggio fatto di sguardi. Qui l'incomunicabilità poi è spostata a un livello insomma ancora più estremo, quando ed è quello di lei morta che tenta di comunicare e le sue parole non vengono più sentite. In 70 Acrilico e 30 Lana c'erano una madre e una figlia, c'era il problema dell'incomunicabilità, c'era una madre depressa che fotografava i buchi. In Cuore Cavo c'è ancora una madre depressa che fa la fotografa, e c'è un problema di incomunicabilità. E c'è anche un buco qui, c'è il Cuore Cavo. E c'è il Cuore Cavo, tra l'altro, c'è il Cuore Cavo che è proprio fisicamente quello poi che succede al corpo. Come mai sei voluta tornare con la tua seconda opera ad analizzare un po' sempre una dinamica simile? Beh, perché è un pretesto, insomma, raccontare, visto che mi sta così a cuore l'incomunicabilità, e che qui ovviamente il discorso era diverso, perché era proprio una morta che là è il lato estremo dell'incomunicabilità, perché effettivamente non viene più vista, non viene più sentita. Però mi interessava che, appunto per questo mio scopo di raccontare tutto dalla vita alla morte senza che si percepisse un vero stacco, volevo che in qualche modo Dorotea da Viva corrispondesse un po' a Dorotea da Morta. Quindi Dorotea da Viva l'ho raccontata come anche lì una sorta di fantasma che non viene veramente visto dalla madre, e che la madre la fotografa, e però con lunghi tempi di esposizione, quindi lei stessa non, nelle foto non sono molto nitidi i confini del suo corpo. Da morta Dorotea si guarda il suo corpo ormai sepolto, e ha un atteggiamento più affettuoso nei confronti di se stessa di quanto l'ha avuto da viva. Come mai? Beh, perché mi piaceva l'idea di insomma uscire da questa dimensione della coincidenza tra virgolette anima, spirito, quello che è corpo, e quindi lei si guarda da fuori con passione di sé, perché si guarda all'esterno, in realtà fa quello che faceva da viva, cioè racconta sul diario la sua interiorità, ma in questo modo adesso in senso letterale, no? Quello che le succede veramente all'interno. E vedendosi dall'esterno, insomma, si instaura questo meccanismo di pentimento, in realtà riguardo a tutte le cose della sua vita. Della sua vita. Sì. Perché lei in qualche modo da fantasma, diciamo così, anche se non c'è niente di già visto in questo romanzo, guarda se stessa e riguarda la sua vita e vede gli altri personaggi, le persone della sua vita andare avanti. Come mai tu, Viola, indaghi spesso nelle psicologie tormentate? Ma perché amiamo le cose che amiamo, non credo che ci siano cioè possiamo razionalizzarlo, ma i motivi non cioè il vero motivo non penso che possiamo davvero saperlo. Io non so perché scrivo, non c'è un perché, nel senso non è una cosa esterna a me, è una cosa che ho sempre fatto, e sarebbe come chiedermi perché respiri. Ho detto la stessa cosa. Abbiamo pensato la stessa cosa, certo. Questo romanzo Cuore Cavo, tra l'altro, ha una copertina bellissima. Secondo me è difficile descriverla in radio, insomma, però basta entrare in una libreria per scoprirlo. È un viso femminile, molto probabilmente stilizzato con una rana che esce dal cervello, insomma un rospo, qualcosa del genere, un fiore. Dove hai trovato questa copertina? Di un artista giapponese, giusto? Intanto credo sia un camaleonte. Ah, è un camaleonte, hai ragione, io con gli animali ho qualche problema. Vabbè, anche questo è un'interpretazione. Ma questa copertina è perfetta perché beh, questo artista lavora molto sulle metamorfosi, appunto, e quindi questa testa che si trasforma in altro, appunto in questo camaleonte, in un fiore, è un corpo umano che sconfina nella natura, in altro, come nel mio libro, insomma. Grazie a Viola Di Grado, ora in libreria con Cuore Cavo, pubblicato da EO. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.